English Bit di Giulia Crivelli. Shut up or we'll shut you down. Il Wall Street Journal, da sempre molto critico con il presidente Barack Obama e la sua amministrazione, titolava così un articolo dedicato a Elizabeth Warren, economista, senatrice del Partito Democratico e sostenitrice delle politiche di Obama in tema di ambiente e Advocate of Climate Change Regulation. Advocate è un false friend, perché non significa avvocato, che si dice lawyer, bensì appunto sostenitore. Secondo il quotidiano, la Warren è un esempio di come membri del Partito Democratico cerchino di silenziare ogni voce critica sulle scelte del governo. Nello specifico, la senatrice avrebbe shut down, cioè chiuso, un think tank colpevole di aver detto che le nuove leggi in tema di ambiente costerebbero miliardi di dollari alle aziende. Shut down è un phrasal verb. To shut, verbo irregolare perché il simple past e l'infinito passato sono uguali all'infinito presente, to shut, shut, shut, significa chiudere, nel senso più tradizionale del termine, shut the door, chiudi la porta, shut the mouth, chiudi la bocca, ma l'aggiunta di down lo rafforza. He shut down his business because he wanted to have more time for his family. Ha chiuso la sua attività perché voleva avere più tempo per la sua famiglia. The movie theater was shut down because most people deserted it. Il cinema fu chiuso perché la maggior parte delle persone non ci andava più. La Warren è quindi accusata di aver fatto chiudere un think tank, altra espressione interessante perché è entrata anche nell'uso comune in italiano. Letteralmente significa serbatoio di pensiero ed è un organismo, un istituto, una società tendenzialmente indipendente che si occupa di analisi delle politiche pubbliche. Il termine venne coniato negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il Ministero, Department in americano, della Difesa creò delle unità speciali per l'analisi dell'andamento bellico, chiamate in gergo proprio think, pensiero, tank, che significa tanica, serbatoio, ma anche carro armato. Tornando a shut e al Wall Street Journal, shut up è un altro phrasal verb e significa smettere di parlare. Shut up for a second and listen to what I have to say. Taci per un secondo e ascolta quello che ho da dire. Shut off, invece, è simile a shut down, mentre shut in significa rinchiudere anche in carcere.